Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Rimane parte. Cioè, si sto dicendo che parte, no? E poi non. Ma non manca, non ce la faccio più. L'Italia è il posto da cui oggi forse è più facile aver voglia di andare via, però è anche uno dei posti del mondo, diciamo, per cui è più un peccato voler andare via. L'Italia mi ha costretto ad andarmene e questo non glielo perdonerò mai. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Per iniziare oggi abbiamo scelto Emergency Exit, progetto curato da Brunella Fili, con le voci, le avete ascoltate, di Massimo Troisi, Daniele Silvestri e di Anna, giovane veterinaria a Vienna. Storie, vite ed emozioni di giovani italiani che hanno lasciato il nostro paese in cerca di opportunità e di un futuro migliore. La frase della settimana è copyright del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Abbiamo uno spread educativo altrettanto grave dello spread finanziario. Tanti nostri laureati non riescono a trovare lavoro, ma siamo penultimi tra i 34 paesi OCSE per tasso di laureati under 35. Per Squinzi, quello della disoccupazione giovanile è un dato tragico, ma non dobbiamo perdere l'ottimismo. Quello stesso ottimismo, aggiungiamo noi, e quella stessa grinta di chi l'Italia l'ha lasciata ma continua a sperare dall'estero a un cambiamento. Anziché eliminare, come si tende a fare soprattutto ultimamente, i privilegi, io li vorrei invece riservare a chi in questo momento sta dimostrando e ha dimostrato per il passato qualità e risultati all'estero. Dario Dall'Oste, 34 anni, è direttore commerciale per la multinazionale International Lacrosse in Lussemburgo. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. In apertura un focus territoriale sulla fuga dei talenti che ci porta prima in Umbria, poi in Veneto e infine in Emilia. Iniziamo con l'Umbria, che ha diffuso i primi risultati del questionario Keep in Touch, che ha censito gli immigrati regionali all'estero. Un centinaio hanno risposto alla call con un'età media di 36 anni, uno su cinque ha scritto da Argentina e Belgio, a seguire Brasile e Germania. Molto elevato il titolo di studio dei nuovi immigrati umbri, il 40% ha il dottorato, il 32% la laurea. Nei paesi di approdo prevalgono i contratti a tempo indeterminato, solo il 2% sono disoccupati. La metà di questi immigrati vorrebbe tornare in Umbria per creare impresa. E ora nella Nord-Est, se rimangono in Italia devono accontentarsi di poco, mentre all'estero trovano riconoscimenti e soddisfazioni. Questa è la sintesi dello studio sui cervelli in fuga, realizzata dall'osservatorio Professione Donna. Lo studio ha coinvolto 50 giovani veneti qualificati in 11 paesi del mondo. Il motivo principale per cui sono espatriati è che l'Italia non offre le stesse opportunità. A mancare qui è la fiducia nei giovani, seguita dalla possibilità di avviare nuovi progetti. Gli intervistati affermano che gli amici rimasti nella penisola hanno trovato lavoro perché si sono accontentati di posizioni inadeguate in ben la metà dei casi. Per Lisa Zanardo, curatrice del rapporto, lo Stato italiano spende e forma ottimi profili professionali che regala alle imprese estere. Dal Veneto all'Emilia, mentre la Gazzetta di Parma dedica due pagine a quei ragazzi con la valigia, raccontando sei storie di giovani professionisti parmigiani trentenni al lavoro all'estero, uno studio della Camera di Commercio di Ferrara rileva che quasi un cittadino ferrarese su tre, soprattutto i più giovani, dimentica il posto fisso e pensa di spostarsi anche oltre le Alpi. Dall'Italia se ne vanno purtroppo anche le aziende innovative. L'11% delle start-up decide di incorporarsi all'estero. La crescita è del 20% rispetto all'anno scorso. Un segnale della sempre minore competitività del nostro paese nell'attrazione di investimenti e nuove imprese, secondo l'indagine di Mindbridge. Questo dato può segnalare un possibile rischio di corporate drain, una fuga delle nostre aziende più promettenti, aggiunge Alberto Onetti, presidente della fondazione. Tra i paesi che mostrano maggiore capacità di attrazione delle nostre start-up, Stati Uniti e Gran Bretagna. Il 52% degli start-uppers ha una laurea di primo livello, 10 un PhD o MBA, e cercano personale qualificato. Oltre la metà decide dove stabilirsi sulla base di dove è disponibile personale con elevato titolo di studio. Intanto la crisi non risparmia i giovani imprenditori. Le aziende guidate da under 35 sono oggi 642.000, oltre il 3% in meno rispetto a 12 mesi fa, lo calcola Infocamere. Per Coldiretti SVG, in un solo anno sono andate perse 26.000 aziende condotte da giovani, quasi 697.000 le imprese under 35 che hanno invece resistito alle difficoltà. Per la Camera di Commercio di Monza, oltre il 7% delle imprese giovani è a rischio, soprattutto al sud. Secondo uno studio della Commissione Europea, studiare all'università in Italia costa in media 1.434 euro l'anno, più elevati i costi in Gran Bretagna, mentre risulta conveniente frequentare un ateneo in Germania, dove non si superano i 1.000 euro. In Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia studiare resta un diritto sostanzialmente gratuito.